Quattordicesima unità. Come va la salute? Dialogo. Visita a domicilio. Ah, ciao mamma. Luca è a letto con la febbre. Che ha? Non saprei. Potrebbe essere un'allergia. Ha delle macchie rosse sul petto e sulle braccia. Povero bambino. Dice che gli fa male la testa. Speravo che la febbre sarebbe passata con l'aspirina, ma ha ancora più di 38. Più di 38? E secondo te sarebbe solo un'allergia? Senti che tosse. Per me ha preso l'influenza. Avresti dovuto chiamare il pediatra. L'avrei chiamato anche ieri, ma il dottor Cardi non c'è. La settimana scorsa mi ha detto che sarebbe andato fuori per una ventina di giorni. Avrà pure un sostituto, no? Certo, è una dottoressa. Allora credo che faremmo meglio a chiamarla. Vorrei esserci anch'io quando viene. Vediamo. 5, 7, 9, 4, 8, 3. Strano, non risponde nessuno. Eppure a quest'ora dovrebbe esserci. Lascia suonare ancora. Ah, ecco. Pronto? Sono la signora Bruni. Potrei parlare con la dottoressa? Attenda un attimo, per favore. Gliela passo subito. Buonasera, mi dica. Buonasera. Senta, sono due giorni che il mio bambino non sta bene. Ha febbre? Sì, 38,2. Potrebbe venire a vederlo? Guardi, sarei venuta anche subito, ma ho altre due visite. Potrei passare verso le 7, le va bene? Sì, certo. Le do il mio indirizzo. Viale Brianza 37. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Ah, ciao mamma. Luca è a letto con la febbre. Che ha? Non saprei. Potrebbe essere un'allergia. Ha delle macchie rosse sul petto e sulle braccia. Povero bambino. Dice che gli fa male la testa. Speravo che la febbre sarebbe passata con l'aspirina, ma ha ancora più di 38. Più di 38? E secondo te sarebbe solo un'allergia? Senti che tosse. Per me ha preso l'influenza. Avresti dovuto chiamare il pediatra. L'avrei chiamato anche ieri, ma il dottor Cardi non c'è. La settimana scorsa mi ha detto che sarebbe andato fuori per una ventina di giorni. Avrà pure un sostituto, no? Certo, è una dottoressa. Allora, credo che faremmo meglio a chiamarla. Vorrei esserci anch'io quando viene. Vediamo. 5, 7, 9, 4... 8-3. Strano, non risponde nessuno. Eppure a quest'ora dovrebbe esserci. Lascia suonare ancora. Ah, ecco. Pronto? Sono la signora Bruni. Potrei parlare con la dottoressa? Attenda un attimo, per favore. Gliela passo subito. Buonasera, mi dica. Buonasera. Senta, sono due giorni che il mio bambino non sta bene. Ha febbre? Sì, 38,2. Potrebbe venire a vederlo? Guardi, sarei venuta anche subito, ma ho altre due visite. Potrei passare verso le 7. Le va bene? Sì, certo. Le do il mio indirizzo. Viale Brianza 37. Vocaboli pagina 357. Medico. Ospedale. Pronto soccorso. Ambulanza. Vocaboli pagina 359. Mal di denti. Mal di stomaco. Mal di testa. Mal di schiena. Vocaboli pagina 362. Figlio, moglie, nuora, marito, nubile, figlia. Vocaboli pagina 363. Infermiera, dottoressa, cameriera, scrittrice, pediatra. Vocaboli pagina 369. Denti, naso, testa, stomaco, viso, mano, gola, gamba, occhio, schiena, braccio, orecchio, piede. Quattordicesima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 18. È grave, dottore? Qual è il problema, signorina? Lo stomaco. Sono ormai 2 settimane che mi fa sempre male. Il dolore è più forte a stomaco pieno o vuoto? Vuoto. Sta facendo qualche dieta? No, mangio di tutto, ma ho poco appetito. Nella sua famiglia c'è qualcun altro che soffre di questo disturbo? No, non direi. Che tipo di lavoro fa? Sono segretaria d'azienda. È contenta del lavoro? Negli ultimi tempi non tanto. Ha altri sintomi, oltre al mal di stomaco? Sì, il mal di testa, fortissimo. Ha dolore su tutta la testa o in un punto preciso? Mi fa male quasi sempre la parte sinistra, incluso l'occhio. Perché? Potrebbe avere una relazione con il mal di stomaco? È presto per dirlo. Prima si dovrà conoscere il risultato delle analisi. Potrebbe esserci qualcosa di grave? No, non direi. Intanto le consiglio di stare calma, ha le mani sudate. Eh sì, e sono nervosa. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 373. Ha portato le analisi? Sì, dottore, eccole qui. Mi faccia vedere. Eh sì, il colesterolo è troppo alto. Dovrebbe seguire una dieta povera di grassi. Insomma, niente burro, pochissima carne, molto pesce, molta verdura, niente dolci, poco pane, niente pasta e niente alcolici. Ma io mangio pochissimo già adesso, mi creda. La sera poi vado a letto con la fame, eppure non dimagrisco. È impossibile. Se si mangia poco non si ingrassa, questo è sicuro. Forse dovrei mangiare ancora di meno. Ma come faccio poi a lavorare? Lei capisce? 93 kg con una statura di 1,70 m sono veramente troppi. Non dimentichi che ha 47 anni, un'età pericolosa. Se non perde i chili in più, potrebbe avere dei seri problemi di circolazione. O vuole farsi venire un infarto.